Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, oggi parliamo di uno strano contagio che non ha nulla a che fare con virus e batteri. Si propaga, direi, dallo sguardo, molto rapidamente, guarisce all'istante, non è pericoloso ma può essere fastidioso e a volte anche imbarazzante. Sai che la mia collega mi ha detto che a scuola di sua figlia ci sono i pidocchi? Oh, non è una novità. Ogni anno la stessa storia. Ma perché ti preoccupi? Tu non hai figli. No bambini, no pidocchi. Le tue chiome sono al sicuro. Dai pidocchi sì, ma non dalla mia collega. E cosa c'entra la tua collega? Hai paura che si prenda i pidocchi dalla figlia? Beh, non so. Ma l'anno scorso era così preoccupata e calata nella parte che sino a quando a scuola di sua figlia non è passata l'emergenza, lei si grattava la testa di continuo. Ma aveva i pidocchi? Ma no! E allora? E vedendo lei che si grattava, mi grattavo pure io. Guarda, non ti dico. Sono dovuta andare in farmacia per farmi dare una lozione. Non so perché, ma sono un tipo molto vulnerabile. A scuola bastava che un compagno sbadigliasse e io attaccavo con una serie di 10 sbadigli di fila. Così davo nell'occhio e i professori se la prendevano sempre con me. Perché osservare chi sbadiglia? O chi si gratta fa venire voglia di imitarlo. Forse oggi troveremo una risposta, perché in linea abbiamo il professor Massimiliano Oliveri, professore di neuroscienza all'Università di Palermo. Professore, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Sì, effettivamente lo sbadiglio e il prurito, direi, più che l'azione del grattarsi, sono contagiosi, come ha appena detto lei, ma lo sono perché fanno risuonare alcune zone visive e motorie nel cervello di chi osserva questi gesti. Immaginare di sentire prurito, per esempio, perché si osserva qualcuno che avverte questa sensazione o si sente parlare di uno stimolo, come il parassita pidocchio che abbiamo sentito nella scenetta iniziale, che provoca prurito, attiva nel cervello dell'osservatore delle aree, le aree premotorie, che sono coinvolte nella comprensione dell'azione osservata. E invece lo sbadiglio fa accendere nel cervello dell'osservatore delle zone che sono coinvolte in un'attivazione più automatica dei movimenti, senza una reale imitazione. Bene, professore, ma ci sono differenze tra questi due gesti? Sì. Il contagio, per dir così, dello sbadiglio ha più una valenza sociale e sembra legato all'empatia. Direi anzi che sarebbe un meccanismo ancestrale di empatia automatica. Sì. Prurito e grattamento invece non sono legati all'empatia, al sentirsi vicini agli altri. Noi possiamo provare prurito anche semplicemente osservando uno spazzolino che solletica una mano di gomma posta vicino alla nostra. E non possiamo dire di diventare empatici con una mano finta. No. Senta, professore, lo sbadiglio può essere inopportuno, ma si riesce a soffocare, a mascherare. Il prurito invece è imbarazzante, però può essere più appagante dello sbadiglio, perché grattarsi può essere anche piacevole, grattarsi dà anche sollievo in certi limiti. Sono d'accordo. Effettivamente sbadigliare è un'azione automatica che si può contrastare con un'altra azione volontaria, in modo da sopprimerla. Il prurito è invece più difficile da controllare se non grattandosi. L'azione del grattarsi provoca nel cervello l'attivazione di zone come l'insula, che sono associate al piacere e alla gratificazione, e come la corteccia prefrontale, invece, che attiva la compulsione del grattarsi quasi per prolungare questa sensazione di piacere, di soddisfazione. D'altra parte, può essere utile ricordare che altre zone cerebrali, come il cingolo, che segnalano tra l'altro l'incongruità e l'inopportunità di alcune azioni, si spengono durante il grattamento, e questo potrebbe spiegare l'emergere compulsivo di questo comportamento nonostante la sua inadeguatezza sociale in certe situazioni. Professore, io la ringrazio per essere stato con noi. Noi oggi, tra sbadiglio e prurito, ci faremo contagiare dal prurito. Buona giornata! Buona giornata e molti auguri a tutti voi. Grazie. Amor fa metter l'ale all'anima. E questo metter dell'ale è come il metter dei denti dei fanciulli, il quale è accompagnato da prurito, che è una cosa mista di diletto e di consumamento. piacevole e al tempo stesso doloroso, uno strano sintomo il prurito. Se volete parlarne con noi, 800 24 0024, i messaggi al 349 238 6666. In linea il professor Antonino Di Pietro, dermatologo e presidente ISPLAD. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno, buongiorno anche a tutti gli ascoltatori. E in studio con me qui ho il professor Alberto Caputo, psichiatra e direttore del centro Skin Deep. Buongiorno professore. Buongiorno a tutti, buongiorno a te Antonino. Sì, ciao Alberto. Un dermatologo e uno psichiatra, due specialisti diversi di fronte allo stesso sintomo. Professor Di Pietro, il prurito segnala la presenza di un disturbo, di un'irritazione, di un'allergia o di uno squilibrio. In effetti quando si manifesta è abbastanza difficile ignorarlo, si ha immediatamente l'istinto di grattarsi e subito dopo anche il desiderio di capire quale sia la causa che lo ha scatenato, ed è al dermatologo che spesso ci si rivolge per trovare risposta. Beh, sì, certo, anche perché il prurito si manifesta sul nostro rivestimento, sulla pelle. Il dermatologo è chiamato quindi in primis, no, per cercare di capire il perché. E il perché può essere anche vasto, perché ci si potrebbe trovare di fronte ad una forma allergica o invece anche a una forma di carattere internistico, il diabete, alcune malattie interne dell'apparato gastrointestinale, del fegato, possono manifestarsi con prurito. Quindi la prima cosa che il dermatologo fa è fare un accertamento di tipo generale, degli esami del sangue per capire se c'è qualche elemento interno legato con la pelle che poi dà il prurito, e poi guardando, osservando la pelle, cerca di capire se si trova invece di fronte ad una dermatite, quindi di tipo allergico, oppure a dei parassiti, come abbiamo sentito all'inizio della trasmissione. E poi bisogna chiedersi se il prurito non nasca dalla mente anziché dal corpo. Professor Caputo, la pelle prude, per parlarci degli aspetti, metto una virgolette, pruriginosi della nostra vita, che faticano a uscire per altre vie. Grattiamo la testa quando un pensiero ci tormenta, sentiamo prudere le mani quando vorremmo colpire qualcuno ma non possiamo farlo, usiamo l'espressione avere dei pruriti per indicare desideri legati all'eros. Con il prurito, insomma, il corpo a volte vuole attirare la nostra attenzione su un problema. Certamente, facciamo un piccolo esperimento tutti. Sì. Forza, battiamo le mani. E oggi è una giornata fredda, ma quello che sentirete fra poco è veramente il prurito delle mani. Questo è una modalità simbolica per significare che quando vogliamo menare le mani, la sensazione che accompagna lo schiacciamento della cute è poi il prurito. Allo stesso modo, gli aspetti più pruriginosi dell'eros erano spesso legati a una promiscuità sessuale, e in passato, come sappiamo, le malattie sessuali erano estremamente diffuse ed erano accompagnate da grattamento. Quindi chi aveva un'attività sessuale promiscua probabilmente aveva anche più facilità a doversi grattare nelle zone anogenitali, e questo è una cosa che ci portiamo dietro. Professore, talvolta viene da grattarsi il naso. E anche quello racconta delle cose del... Ah sì, assolutamente. Tenete presente che la mucosa del naso tende a, diciamo così, vascolarizzarsi, o comunque ad avere un afflusso di sangue maggiore nei momenti di forte ansia o quando mentiamo. Andate a vedere su YouTube quando Clinton è stato intervistato rispetto alla Lewinsky, e lui si grattò nel giro di pochi minuti circa 15 volte il naso. Un bel pinocchio, si chiama proprio effetto pinocchio. Invece ci grattiamo la punta del naso quando proviamo interesse per qualche motivo. Ah, quindi è proprio il linguaggio del corpo che ci racconta, mentre quando abbiamo un grattacapo... E grattacapo è quando ci grattiamo, grattare significa anche scavare, quindi scavare nella mente, l'aspetto simbolico è proprio il passarsi la mano sul capo. Prendi la mano e dammi la mano e prendi la mano. Dammi la mano, il padre, il bambino lo tiene per mano, c'è tutto il destino in un palmo di mano, le mani che sanno parlare, che sanno guarire, che sanno pregare, le mani legate, le mani. Professor Di Pietro, a volte il prurito è localizzato, il professor Caputo ci ha spiegato l'origine, no, delle mani che prudono, ma a volte il prurito invece è diffuso. Questa è un'indicazione importante per un dermatologo e credo anche per i nostri ascoltatori, che possono raccontarci i loro pruriti, parlo al plurale, all'800 24 00 24. Professore. Sì, certo, anzi la localizzazione del prurito è un elemento importante per il dermatologo. Ad esempio, quando un paziente ci racconta che ha prurito nelle parti della pelle più delicate, quindi non so, negli spazi tra le dita, le ascelle, le areole mammarie oppure i genitali, e quando questo prurito è soprattutto in certi momenti della giornata, ad esempio la notte, il dermatologo sospetta subito a dei parassiti, i quali vanno sulla pelle e si localizzano dove la pelle è più tenera, quindi dove è più facile mangiare. Sì, vogliono fare poca fatica, insomma. Esatto. Anche loro. Allora, queste zone sono caratteristiche. Oppure quando il prurito si trova dove veniamo a contatto con certe sostanze, ad esempio il nickel degli oggetti della bigiotteria, e quindi orecchini, braccialetti che contengono questo metallo, danno indicazione subito per una forma di tipo allergico. Ecco, allora in questo modo ci si orienta, la sede diventa importante per il tipo di prurito. Andiamo a Verona, ci aspetta Maria all'800 24 00 24. Maria, benvenuta, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi e grazie per avermi richiamato. Io, il mio problema è che da parecchio tempo ho un prurito localizzato nella schiena, a livello scapole. Diciamo che durante il giorno non c'è male, però la sera si manifesta più forte. Allora, noi proviamo a dare una doppia lettura. Professor Grazie. Di Pietro, se Maria entrasse nel suo studio, lei che cosa, quali altre domande le farebbe? Su quale dettaglio di Maria le aiuterebbe a orientare la sua diagnosi? Verso sera, no? Questo prurito. Chiederei se andando a letto questo aumenta. E comincerei e poi la guarderei, quindi localmente la prima cosa da fare è vedere se ci sono delle piccole lesioni, delle vescicole, delle bolle, chiedere da quanto tempo ha il prurito, perché se è cronico e da molto da qualche mese che continua ad avere questo prurito, va esclusa una patologia solo cutanea, ma può essere qualcosa invece di più profondo, come ad esempio la compressione di un nervo che dalla colonna vertebrale parte e arriva fino alla cute. Infatti molti casi di prurito che non manifestano sulla pelle nulla, cioè si guarda la pelle e non c'è nulla, si sente il prurito ma non c'è niente di particolare, sono causate da una malposizione. È possibile che la nostra ascoltatrice durante il giorno assuma delle posture particolari davanti al computer o per tipo di lavoro che fa, si verifica una compressione di un piccolo ramo nervoso che poi arriva sulla pelle e dà questo prurito. Quindi consiglio una visita da un buon osteopata, ad esempio, o da un ortopedico fisiatra, ancor di più, per verificare che non ci sia un'alterazione nella colonna vertebrale che dà questo problema. Professor Caputo, ma io come posso capire se il prurito è di origine psicosomatica? Posso farmi delle domande? Certamente, dovremmo escludere tutte le situazioni fisiche e chiaramente allergiche, quindi rimangono quelle psicologiche. Nel caso della nostra ascoltatrice direi questa cosa: se il dermatologo e l'ortopedico non hanno dato risposte sufficienti, proverei a pensare all'aspetto simbolico di quello che sta accadendo. Premesso che il tono adrenergico sale durante la notte e diminuisce, scende durante la notte e aumenta quello istaminergico, quindi tendenzialmente il prurito tende a aumentare nelle ore serali. Per quello che riguarda la localizzazione e il fatto che si verifica a letto, proviamo a fare una piccola interpretazione. Sì. Allora, signora, pensiamo a guardarci le spalle, perché evidentemente c'è qualcosa che ci prure, che ci dà fastidio dietro le spalle. Se succede a letto, cioè nel talamo nuziale, possiamo pensare se il suo compagno sta combinando qualcosa, quindi lei ha qualche sospetto rispetto a un'attività del suo compagno al di fuori della scoppia. Professore Caputo, quindi noi possiamo attivare i nostri ascoltatori chiedendo loro: raccontateci la sede del vostro prurito e fatevi aiutare da noi a farvi delle domande? Perché no? Professor Di Pietro, invece lei come dermatologo alcune domande le ha già fatte, ma suggerirebbe altri quesiti come questi ad esempio. È diffuso su tutto il corpo o localizzato in aree precise? Grattandoti provi sollievo o al contrario il disturbo peggiora? Insorge in ore particolari della giornata, ad esempio di notte o in alcune stagioni? Peggiora dopo un bagno o una doccia caldi? Professor Di Pietro, vogliamo aggiungere ulteriori domande? Sì, certo. Se assumendo qualche alimento, ecco, perché anche l'alimentazione può avere importanza, molte forme sono su base allergica, ad esempio, da ciò che mangiamo o anche da ciò che indossiamo, ci sono ad esempio le fibre di lana, la lana che può causare prurito in chi è sensibile, o come ho detto prima anche il contatto con certi metalli, ad esempio una cosa che potevamo chiedere alla nostra ascoltatrice prima è se metteva o mette dei reggiseni col gancetto di metallo, in questo caso potrebbe essere un prurito da insofferenza al metallo e quindi al nickel. Ecco, quindi queste sono tutte domande che un dermatologo fa sempre. 800 24 00 24 se le domande volete farle voi ai nostri esperti. E abbiamo Christian che ci chiama da Siena. Buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno. Buongiorno a lei. Volevo chiedere al dottor Di Pietro, io sono un ex atleta agonista e ogni volta che ero in competizione, soprattutto quelle importanti, poco prima di andare in gara mi prudevano tutte quante le braccia, le gambe. Mi scusi, che cosa faceva? Qual era la sua specialità, Christian? Nuoto, ero un nuotatore agonista. Professor Di Pietro. Ma questo può essere un'orticaria. Ci sono delle forme di orticaria che è il professor Caputo che è lì sicuramente chissà quanti ne vede di questi casi, che sono legati anche a periodi di stress, di tensione emotiva in cui tende ad aumentare la quantità di istamina che poi viene rilasciata in grande quantità e causa questo prurito, quindi orticaria da stress. Questo potrebbe essere una spiegazione. Un'altra spiegazione è che se l'ascoltatore prima di questa sua prestazione sportiva magari così mettesse delle sostanze sulla pelle per cercare di scaldare i muscoli, e questa può essere un'altra ragione. E ci poteva magari avere una sorta di allergia. Certo, certo. Professor Caputo, ma questa è sicuramente una telefonata che chiama in campo anche lei, cioè prima di una competizione lo stress aumenta e noi sappiamo anche che lo stress fa aumentare il prurito anche in molte delle malattie dermatologiche che hanno proprio come il prurito come sintomo. Sicuramente c'è un aumento di tutta una serie di fattori come il CRF, la CTH, la pro-oppio-melatonina, che sono tutta una serie di sostanze che modulano sia il dolore che il prurito. Quindi sicuramente c'è un aspetto importante, una correlazione tra ansia, stress e depressione insieme al prurito. E quindi vai che ci si gratta e dà una sensazione piacevole. E purtroppo la sensazione piacevole è la trappola del prurito. Perché? Perché le fibre che portano il prurito sono delle fibre secondarie rispetto a quelle dolorose e sono inibite dalle prime. Che cosa significa? Che quando il riflesso del prurito si instaura, il meccanismo di grattamento prevede comunque una stimolazione pressoria delle fibre dolorose che inibiscono quelle del prurito. L'inibizione del prurito attraverso il dolore provoca piacere. Se il dolore provoca piacere, siamo all'interno di una bella trappola, per cui continuiamo a grattarci. Suggeriremo anche dei rimedi naturali per calmare il prurito, ma professor Caputo, oltre ai farmaci, ai bagni ad esempio con l'amido di cui parleremo, Quali sono le tecniche che ci permettono di allontanarci da questa trappola? Quando siamo di fronte a una forma di prurito resistente, la letteratura suggerisce per esempio tecniche di rilassamento, l'ipnosi, oppure più recentemente, tra l'altro sviluppata in Italia, una tecnica strategica come quella suggerita da Nardone, dove l'approccio di tipo paradossale prevede di grattarsi 5 minuti ogni ora. È una sorta di vaccino. Esatto, è una forma, si chiama tra l'altro vaccino come tipo di meccanismo, psicologico, cioè quella di provocarsi il grattamento anche se non voluto. Questa situazione paradossale, quando siamo di fronte a pruriti che non hanno un'origine medica o biologica, diventa importante sbloccare questo meccanismo. Come altri meccanismi sono quelli su base immaginativa, cioè immaginare attraverso una serie di protocolli di lenire il prurito attraverso una serie di sensazioni, come quelle di immaginare di provare di farsi delle spugnature fredde, che aumentano piano piano la capacità di contenere un prurito di natura psicogena. Abbiamo tempo forse di andare a salutare Mario, che ci chiama dalla provincia, mi scrivono, di Monza Brianza. Buongiorno Mario. Esatto, buongiorno. Buongiorno a voi e grazie della trasmissione. Volevo fare una domanda di questo tipo. Io ho due bambini, 3 anni e 6 anni, sì, e tutti e due nelle ore notturne, soprattutto, anzi quasi esclusivamente nelle ore notturne, hanno forte prurito nella zona dietro le ginocchia. Tutte e due fratelli. Sì. Professor Di Pietro, la notte abbiamo visto che è un momento un po' critico per il, sì, prurito. Certo, sì, perché di notte la maggior parte, non tutti, ma la maggior parte dei pruriti possono essere causati da parassiti. La zona delle ginocchia è una zona a rischio, perché lì la pelle è più tenera, quindi in questo caso osservare quella parte, quindi quelle zone, per un dermatologo diventa fondamentale, diventa importante, per cui va esclusa eventualmente la presenza di parassiti. Ma un'altra causa potrebbe essere la dermatite atopica, che nei bambini è molto frequente, colpisce quella zona, così come anche altre del corpo, e quindi va fatta una diagnosi differenziale, come si dice in termini medici, va osservato e va valutato questo. Bisogna capire anche da quanto tempo questo succede, se è un fatto solo di poche settimane, delle ultime settimane, o se invece già è da un anno, ad esempio. Allora, in questo caso è più una dermatite atopica, se da poche settimane bisogna pensare o sospettare una parassitosi. Andiamo a sentire i mercati, il meteo. Vi leggo un messaggio di Tina. La mia mamma diceva sempre mangiare, grattare, tutto sta nel cominciare. A forza di parlare di prurito, non so, adesso non devo stare ferma perché sennò il professor Caputo scopre lati nascosti del mio carattere, ma viene un po', no, da grattarsi. 800 24 00 24, restate con noi, intervenite, a tra poco. No, allora, ultimo giorno, Silvano torna lunedì. Sì, peccato, cominciava a piacermi qui, siete tutti così simpatici. Io, ciao Luca. Ciao. Cioè, quasi tutti. Vai, bravo. Perché non tratti così quel poveraccio? Dice sempre che bisogna essere gentili con gli interminabili. Interminabili. Perché c'ho una roba alle mani, guarda, mi sto grattando, troppo si vedono le ossa. Ma sì, che anche stamattina c'è tutto un prurito qua. Io non ce la faccio più. Più mi lavo le mani, più mi viene da grattare. Pippo, vai in farmacia e fatti dare qualcosa per estirpare il male alla radice. Ciao ragazzi! Ma cos'è successo? L'interinale ha preso il mio posto anche come zimbello, Togo! Ma non dovevi tornare lunedì? Lo so, ma lei è arrivato prima, sono passato a trovare i miei amici. È andata bene, 2 giorni che ci grattiamo. Ah, allora ha funzionato! Cosa? È perché l'ho messa io la polverina urticante nel sapone liquido del bagno. Così più ti lavi le mani e più ti prude, è uno scherzo toghissimo! Professor Di Pietro, lei ha precisato che il prurito, specie se dura da qualche mese, è un sintomo che non va trascurato. Il dermatologo prescrive degli esami per essere certo che dietro al prurito non ci siano malattie importanti, serie, come si dice, gravi. Sì, certo. Non dimentichiamo un film di Nanni Moretti. Il quale pubblicamente in questo suo film accusò dei miei colleghi dermatologi che non avevano preso in considerazione una malattia importante di cui lui era affetto e che solamente dopo molti mesi ne venne a conoscenza. Quindi è molto importante fare tutti gli accertamenti del caso, non bisogna trascurare o prendere sotto gamba un prurito, anche se da dermatologo ormai con quasi 30 anni di esperienza, posso dire che in molti casi il prurito viene poi risolto dal professor Caputo, da Alberto, perché molti casi di prurito invece sono sine materia, come noi diciamo, cioè non hanno un riscontro clinico e quindi sono su base psicosomatica o psicologica, e un bravo psicologo riesce a risolvere brillantemente il caso. Professor Caputo, allora veniamo da lei. Beh, dobbiamo anche dire una cosa, che moltissimi antidepressivi, che tra l'altro sono sostanze che modulano anche gli stimoli dolorifici, fanno passare il prurito, quindi migliorano l'umore e di conseguenza anche il prurito. Daniela ci chiama da Savona, 800 24 00 24. Daniela, buongiorno. Buongiorno, io ho una bambina di 9 anni. Sì. E insieme alla gravidanza è comparsa un'orticaria incredibile, che è durata in maniera acuta per circa 7 anni, diffusa in tutto il corpo, con ponfi e molto molto prurito, che solo il ghiaccio riusciva a farmi passare un po'. E insieme a questi ponfi uscivano anche angioedemi, gonfiori alle articolazioni. Ora la situazione è migliorata, ma continuo nei giorni prima del ciclo mestruale ad avere questo prurito, non più in forma acuta. Sì, però sempre con la comparsa di questi classici ponfi. Professor Di Pietro, la gravidanza è un momento un po' a rischio, c'è proprio il prurito gravidico, vero? Il prurito gravidico, ma c'è il prurito da orticaria. L'orticaria non è causata solamente da non ha una sola causa, sì, ma ha molteplici. Ogni volta che c'è uno squilibrio da qualche parte, quello che noi chiamiamo una spina a volte, che può essere legato a fattori gastrointestinali, ormonali, nervosi, di tutto, a volte anche un semplice granuloma dentale, sì, che non dà dolore, non dà nessun fastidio, può essere visto solamente con una panoramica dentale, quindi con una radiografia, può essere causa di prurito e di orticaria, e quindi ancora di più la necessità di indagare a 360 gradi. Cause ormonali, la gravidanza sicuramente rientrano tra quelle dell'orticaria e quindi del prurito. A volte sono necessari 2 o 3 anni dopo la gravidanza, o anche in casi rari molto di più, come il caso della nostra ascoltatrice, sì, per liberarsi da questa situazione. Professor Di Pietro, ma se sono assalita da questa sensazione di prurito, inizio a grattarmi, mi dà piacere, ma a un certo punto vorrei smettere, che cosa faccio? Metto la nostra ascoltatrice ci ha dato il primo indizio, ci ha detto che il prurito si calmava solo con il ghiaccio o l'acqua fredda. Quali sono gli altri metodi senza ricorrere in prima istanza ai farmaci? Sicuramente non indossare indumenti stretti. A volte il prurito viene alimentato in chi ne ha predisposizione anche da indumenti troppo allacciati. Il freddo sicuramente può essere importante. Alcune sostanze naturali come l'amido, dei bagni di amido, spesso lo si fa nei bambini che hanno tanto prurito, ma anche negli adulti. Attenzione alla temperatura dell'acqua. Chi ha prurito e contemporaneamente un'orticaria, gli sbalzi di temperatura possono aumentare questi sintomi, quindi l'acqua troppo fredda o troppo calda non è indicata. Il prurito, se localizzato, invece col ghiaccio va sicuramente molto meglio che con il caldo, perché il caldo causa una dilatazione dei vasi capillari e quindi un'accentuazione di un'infiammazione latente o che è in atto, e di conseguenza il prurito aumenta. Quindi amido e freddo. Amido e freddo sono le cose immediatamente più utilizzabili. Infatti il professor Caputo diceva visualizzate le spugnature. Sì, esatto. È un tipo di tecnica in cui si prevede, prima di farsi le spugnature, sì, mentalizzare la sensazione di sollievo che la spugnatura fredda dà, e successivamente immaginare una serie di spugnature, ma solo psicologiche. Questa è una tecnica molto interessante. Roberto ci chiama da Treviso. Buongiorno Roberto. Buongiorno. L'ha provato il freddo, l'amido, le spugnature, a immaginare le spugnature? Anche gli indumenti più larghi ho provato e non arrivo. Ho fatto, e non ho visto nulla. Esattamente. Ah, ecco. A me succede periodicamente, con una periodicità irregolare, che sulle natiche, sì, dove si incontrano, per sì, capirci, sì, okay, mi assalgono dei pruriti fastidiosissimi e intensissimi. E anche immagini che... imbarazzanti, Roberto. Anche imbarazzanti, certo. Certo. E appena possibile mi gratto con estremo piacere dell'atto di grattarmi, però non mi accorgo che il mio grattarmi porta a volte, spesse volte, anche al sanguinamento. Poi passa qualche giorno, fine. È tutto. La cosa si chiude là. E non è legata né a cibi che assumo, sono stato attentissimo, né a bevande, né ad alcolici, né a stati di particolare tensione. Non riesco a ricondurlo a nulla. E qua mi fermo. E qua mi fermo, perché facciamo intervenire il professor Di Pietro o il prurito di Roberto è quello che lei e i suoi colleghi definiscono cinemateria. Professor Di Pietro. Beh, allora, io prima di etichettarlo come cinemateria farei un'indagine anche sulla colonna lombosacrale, visto la zona. Sì, perché... era il nervetto a cui lei faceva riferimento, come schiacciato. Come dicevamo prima, negli ultimi anni io vedo che molti pruriti possono essere legati ad una compressione di nervi, dei nervi che partono dalla colonna vertebrale e arrivano fino sulla cute. Ecco, una compressione anche leggera, anzi leggerissima, uno sfioramento di questi nervi per problemi legati alla colonna, quindi sì, artrosi o delle malposizioni, ad esempio, durante la giornata, possono causare prurito. Prurito che sulla pelle non manifesta nulla, cioè non ci sono ponfi, non c'è nulla, mentre il prurito c'è. Attenzione poi invece al grattamento, se mai ne parleremo poi più avanti, perché questi grattamenti portano al sanguinamento e possono causare invece altri problemi dermatologici. 800 24 00 24, non si finisce mai di imparare, come mi scrive Stefania. Speriamo allora. Essere e benessere. Siamo tornati insieme, entriamo nelle nostre case, perché a volte a scatenare il prurito può essere una pianta. La tocchiamo, ce ne prendiamo cura, magari per eliminare le foglie secche o per annaffiarla, ed ecco che avvertiamo questo forte prurito. Allora, a caccia della pianta pruriginosa insieme alla professoressa Rosanna Caraniello. Buongiorno. Buongiorno. Direttrice dell'Orto Botanico di Torino e grande esperta di pollini. Lei collabora con gli allergologi, vero? Sì, dalla parte pollinica da più di vent'anni. Più di vent'anni, sa tutto sui pollini. A proposito di pollini, questo è un buon momento, stanno tranquilli, vero? Ma abbastanza, fra pochino bisogna stare già più attenti per quelle che sono le pollinosi molto precoci. Adesso cominciano appena i pollini di nocciolo, poi ci saranno un po' più avanti quelli di betulla e fra le due, nocciolo e betulla, ci saranno un po' di cupressacee, cioè di quelle specie sempreverdi che molto spesso sono presenti nei parchi. Ma torniamo alle nostre piantine di casa. Professoressa, ci sono delle piante che possono darci prurito? Quali sono? Prurito e qualche volta prurito associato a bruciore. Sì. E questo è molto frequente, per esempio, nelle dracene, cioè queste piante a grande foglia che sono molto decorative, come piante verdi da casa, ancora più legate al bruciore e al prurito, ma soprattutto, ripeto, bruciore, sono quei piccoli peperoni ornamentali che sono molto di moda, molto carini con le loro bacche colorate, e questi sono soprattutto pericolosi per gli occhi. Sì, certo. Perché le mucose sia buccali che quelle oculari possono risentirne fortemente con arrossamenti, con prurito, con bruciore, eccetera. Questo ovviamente è tanto più importante per i bambini che sono molto attratti da queste bacche colorate, ecco. E poi anche, non so, le banalissime piantine, alcune delle banalissime piantine che infestano i vasi, si chiamano euforbiacee alcune di queste, ma comunque tutte le piante con latice, sono abbastanza a rischio. Quindi, insomma. E anche le piante con le foglie un po' pelosine, vero professoressa? Sì, sì, sì, sì. Molte volte questi peli non sono semplici peli di protezione, ma sono dei peli urticanti oppure dei peli ghiandolari, e anche lì ci possono essere sostanze varie, quelle che si chiamano genericamente metaboliti secondari, che in alcuni casi danno fastidio, anche solo rossore alla pelle, senza arrivare all'ortica naturalmente, che è veramente urticante, ma ci sono anche delle possibilità di semplice arrossamento con prurito associato. Quindi usare per le persone particolarmente sensibili, sì, magari dei guantini, e ricordarsi di lavarsi le mani con acqua e sapone, sì, meglio fredda, professor Di Pietro? L'abbiamo sentito prima, quindi certamente meglio fredda, e poi soprattutto appunto chi è già allergico deve fare particolarmente attenzione, perché molto spesso per una persona c'è un rischio, diciamo, minimo, e per un'altra c'è un rischio molto più conclamato, se già c'è una forma di atopia generale dell'individuo. Ecco. Professoressa Caragnello, la ringrazio per essere stata con noi, buona giornata. Anche a lei e a tutti quanti, buongiorno. Buongiorno, voglio leggerle, professor Caputo, e leggerlo anche ai miei amici a casa, un espediente che ci suggerisce Marina, contro il prurito, che ha insegnato ai bambini delle sue amiche, dare una grattatina alla bambola all'orsetto di turno. Garantisco che molte volte, forse perché è distraente, è stato efficace, quindi noi possiamo grattare il collega vicino, sì, se non abbiamo l'orsetto. Oliveri nella prima parte è importante perché lo stimolo del grattamento porta all'accensione del riflesso del grattamento, che si attiva nelle cosiddette aree premotorie, tanto che noi abbiamo voglia di grattarci ancora prima di farlo. Le aree premotorie sono delle aree cerebrali del movimento dove lo schema corporeo viene costruito prima ancora di iniziare il movimento. Quindi se noi riusciamo a portare, e quindi a rompere lo stimolo piacere-dolore, a portare il grattamento su qualcos'altro, può ci essere un'altra. Quindi attenzione, 800 24 00 24, Mario da Firenze, buongiorno. Buongiorno. Mario. Sì, volevo dire questo. Ma sì. Io gli ultimi 8 anni, diciamo, 6 anni, ho avuto sempre nel periodo invernale dei punti ben precisi, e precisamente 3, dove io la sera, quando mi toglievo gli indumenti, mi dovevo grattare forsennatamente, e lì quella parte diventava secca. Sì. Più le cosce. L'anno scorso niente, non è successo niente, non mi sono mai grattato, e quest'anno con la stagione è venuto ora, ho ricominciato, ma non in quelle parti ben precise, ma i piedi, sì, e diciamo la parte, gli stinchi, quei colpacci. Insomma, il suo non è un prurito monotono. Eh? No. Professor Di Pietro, sì, c'entra la pelle secca? Perché sì, sì, sì, certo, bellissimo, il prurito non monotono è bellissimo. la causa in questa situazione potrebbe essere anche legata al microcircolo. Il microcircolo è fondamentale, porta sangue, nutrimento, ossigeno. Se c'è una compressione del microcircolo, perché in certi momenti dell'anno, in certe stagioni, si mettono indumenti, ad esempio le stesse calzature, le scarpe particolari, che possono alterare o comprimere il microcircolo, la cute viene ossigenata meno, verso sera questa sofferenza si manifesta col prurito. Questo potrebbe essere una possibile causa. Tuttavia, ecco, significativo il fatto che sia stagionale, quindi questo potrebbe spiegarlo, insomma. Idratare la pelle per le persone che hanno una pelle particolarmente secca può in qualche modo evitare quei pruriti che vengono localizzati, ad esempio alle gambe, alle braccia, nelle parti dove la pelle tendenzialmente si secca di più? Certo, una pelle secca è una pelle anche più sensibile agli agenti esterni. È una pelle secca, quindi, ed è legata spesso a situazioni di prurito. Una buona idratazione è una dei consigli che noi dermatologi diamo, ed esistono delle ottime creme idratanti utilizzate in questi casi, anche perché sono aggiunte sostanze lenitive come bisabololo o altre sostanze naturali che hanno sempre un po' questo nome che sembrano i 7 nani, vero? Il bisabololo deriva dalla camomilla. Eccola lì. Quindi è il principio attivo della camomilla. La camomilla, lo stavamo dimenticando, è un altro elemento naturale importante per calmare un po' il... Impacchi di camomilla, fredda, impacchi freddi di camomilla. Come l'amido, anche la camomilla può essere importante. Infatti alcune creme lenitive contengono questo principio attivo che si chiama bisabololo, che tende a calmare il prurito in maniera dermocosmetica, ecco, senza arrivare a farmaci particolari come cortisone o altro. Professor Caputo, pruriti nelle parti intime, eh? Abbiamo già spiegato con lei e con il professor Di Pietro che a volte dietro ci può essere una compressione di una radicolopatia lombare. Specialmente per esempio nei pruriti scrotali, che magari riguardano solo una parte del corpo, quindi la compressione è solo di un nervo e quindi se localizzata è meglio rivolgersi a un ortopedico. E quindi non sono desideri repressi? No, assolutamente, sono infiammazioni nervose. Infiammazioni nervose. Sandro da Salerno, buongiorno. Buongiorno, salve. Buongiorno. Avevo una domanda per gli specialisti. Io circa un anno, anzi forse anche qualcosa in più, che soffro di un prurito localizzato esclusivamente alla regione dell'ombelico e più precisamente nella fossetta dell'ombelico e nella zona circostante. A volte è anche molto fastidioso. Ho provato creme idratanti, creme all'amido di riso, dei la camomilla. La spugnatura, insomma. E questo ombelico è una crema all'idrocortisone che me lo fa passare, ma non appena io smetto questa crema cortisonica, questo prurito torna di nuovo. E non riesco a venirne a capo. A capire, perché è solo lì, solo proprio nell'ombelico. Insomma, questo ombelico pruriginoso è strano, come anche dai racconti degli ascoltatori, professor Di Pietro, e anche dai messaggi, insomma, è veramente, si localizza in posti molto strani, ma il prurito proprio localizzato all'ombelico, pensi che Gianluca Nicoletti mi aveva suggerito di fare una puntata sull'ombelico maschile, spesso peloso. Lui mi ha detto devi fare una puntata, io devo dire che non mi sono osata, ma ecco, ricordo che Gianluca mi aveva suggerito una puntata di questo tipo. Ma tornando all'ombelico del nostro ascoltatore, perché proprio lì? Sì, certo, un'ora di trasmissione sull'ombelico peloso forse era un po' dura, eh? Molto dura, ecco. Ma tornando all'ombelico del nostro ascoltatore, che non sappiamo se sia peloso o no, ma potrebbe essere una dermatite seborroica, quindi una forma particolare di dermatite che è localizzata anche all'ombelico, e che può manifestare prurito. Esiste un principio attivo nuovissimo, si chiama aluchina, che è di origine naturale perché è a base di una sostanza di origine vulcanica che è l'allume, l'allume. Che può avere può dare degli ottimi risultati su questi casi di dermatite seborroica e risolvere il problema senza utilizzare cortisone. Professor Di Pietro, devo salutarla perché la trasmissione si chiude qui. Grazie per essere stato con noi, professor Caputo. Grazie anche a lei. Grazie a voi tutti. Grazie a voi che ci avete seguito, siete intervenuti. Potete scriverci su Facebook. Fabio Cantadori in regia alla parte tecnica. Laura Vanossi in redazione. Per oggi è tutto. Vi aspetto domani.